Seconda parte di Up con Nick e Andrea. Siamo partiti con gli Alice in Chains di So Far Under, dal loro ultimo lavoro Rainier Fog, e adesso stiamo ascoltando Arve Henriksen con Gathering in Vaga da Kormosograph. It's so- Thank you. like the fairy tale, the genie there to pray to. Say, my friend, my darling, say, my love for me. After all the cruelty, still Allora, abbiamo ascoltato nella seconda parte di Up dopo Arve Eriksen i Black Rebel Motorcycle Club con Carried from the Start da Wrong Creatures, Cats of Transnistria con la stupenda Opium dall'album omonimo, i Chativiel con Angels Without Wings da Elidas, Field Music con Time in Joy dall'album Open Here, e adesso siamo in ascolto dei God is an Astronaut con Mortal Coil dal loro Epitaph, tutti album targati 2018, in questo riassunto molto rapido e naturalmente parziale di alcune cose che abbiamo ascoltato e che non abbiamo ascoltato, ma che meritavano almeno una menzione in questa puntata dedicata appunto agli album del 2018. A tra poco con la seconda ora di Apple.